24 mattino, l'Italia si desta. Il decreto è in fase di coordinamento testo con i singoli ministri, sarà credo pubblicato in Gazzetta Ufficiale all'inizio della settimana prossima, ma questo consentirà di erogare i mitici 80 euro fin dal mese di maggio. Ci siamo all'inizio di questa settimana prossima. Buona giornata a tutti, buon martedì 22 aprile, buona giornata da Anna Migliorati, Peter Bescapè già pronto in regia. Cominciamo anche questa giornata, questa settimana di Radio 24. Non c'è Alessandro Milan, ma c'è Radio 24 e quindi eccoci qui pronti anche quest'oggi. 349-238-6666 come sempre per i vostri sms. Nel corso della mattinata 800-24-00-24 vi aspettiamo. Siamo con noi per i vostri commenti, per le vostre domande, ma ripartiamo da qui. All'inizio della settimana sarà in Gazzetta Ufficiale, pare che davvero arrivino gli 80 euro, vedremo. Intanto io saluto gli ospiti di questa mattina per questo inizio, come sempre, di Radio 24 con i commenti su quelli che sono i temi comunque del giorno e della settimana. E innanzitutto io saluto Alessandro Giglioli, lo conoscete, blogger, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Piovono rane, o meglio piovono 80 euro, pare. Che dici? Ci siamo, è la settimana. Allora, questa settimana sarà in Gazzetta Ufficiale, vedremo. Sì, a me sembra un'ottima cosa il fatto che arrivino 80 euro a alcuni milioni di italiani, quelli che guadagnano, mi pare, più o meno fra gli 8.000 e i 18.000 euro, no? Sì, poi per gli altri andrà a scalare, si è detto. A scalare fino a 25.000. È un po' come, posso dirla subito così anche se mattino presto, subito, no? Subito, ah, cominciamo mia subito, cattività. Ci scaldiamo è subito. È un po' come se ti avessero rapinato per 30 anni e poi ti ridanno l'euro che è caduto, l'ultima parte sì, di quello che ti hanno rapinato, cioè c'è stata ripeto, meglio che la lotta di classe dall'alto verso il basso abbia subito una frenata, però ci sono stati 30 anni di lotta di classe dall'alto verso il basso, adesso ti restituisco una piccolissima parte di quello che ti sul tuo rubato, blog, no? Tu hai anche scritto, va bene, gli 80 euro, tra l'altro ieri c'era uno studio della CGIA di Mestre che sosteneva che andranno principalmente agli under 30 e soprattutto ai single, e quindi lo stesso Renzi non era così convinto del fatto che poi veramente sulle famiglie ad esempio arrivasse l'effetto. Ma poi tu dicevi i pensionati, gli incapienti, le partite IVA. Un po' per volta arriveranno, insomma. C'è una fascia di italiani che viene premiata, diciamo così, che viene beneficiata da questo d'azione. Ci sono tantissime altre fasce che, comunque, come si suol dire, meglio poco che niente, meglio ad alcuni che a nessuno, eccetera, eccetera, eccetera. L'importante, secondo me, è contestualizzare questa cosa all'interno di una dinamica economica trentennale, ecco, questo è quello a cui vorrei che le persone tenessero conto anche di questo. 800 24 00 24, magari c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che questi 80 euro se li aspetta e magari sa già anche come li spenderà. Carlo Rienzi, presidente del Codacons, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Come li spenderemo, ecco, gli 80 euro? Ma guardi, io penso che sia un inizio, quindi basta con questa ironia degli 80 euro, secondo me. Io sono stato il primo, diciamo, a sorridere un po', però ora basta, pigliamoci gli 80 euro e pensiamo soprattutto a questi giovani che vogliono fare una nuova impresa. Allora, perché non si riforma Invitalia, che è un ente dello Stato che spende milioni per progetti piccoli in tutta Italia di giovani disoccupati? Perché per avere il finanziamento di un progetto Invitalia ci mette almeno un anno e poi lo nega, per esempio quando due giovani vogliono fare un dog sitter in un paesino, in una città piccola, eccetera, perché non c'è il certificato che attesta che io so portare il cane a passeggio. Cioè bisogna andare a vedere chi sono questi signori che danno queste risposte. Purtroppo io sono invaso di piccole aziende, piccoli giovani che vogliono iniziare un'attività che mi dicono quanto è sbagliato questo comportamento di questo ente, che invece potrebbe dare una spinta alla ripresa in modo notevole. Allora, io sto sfogliando anche i giornali, e poi come sempre ci sarà la rassegna stampa dopo il giornale radio delle 7. Vi butto lì una cosa che incuriosiva abbastanza stamattina. Stiamo facendo i tagli, i famosi tagli non lineari, questa volta andiamo sulle cose concrete, si dice, anche per trovare i soldi per questi 80 euro, ma non solo. Allora, sentite un po' il CNEL, che si parlava di tagliarlo, di abolirlo, ente inutile, se ne è dette un po' di tutte. Oggi il Corriere della Sera scrive: il CNEL prova a salvarsi in extremis e taglia il geriatra. Ora, l'età media, leggo dal Corriere della Sera, è altissima, si viaggia attorno a 65 anni, un paio di consiglieri superano persino quota 80, sotto i 50 non c'è nessuno, e quindi tra i suoi consulenti aveva anche un geriatra, non un esperto, ma un medico di fiducia, un dottore che una volta alla settimana saliva con la sua valigetta verso Villa Lubin, la strepitosa sede del CNEL, per dare una controllatina agli acciacchi dei consiglieri. Alessandro Giglioli, questa la sapevi? No, la ignoravo. Queste sono le cose divertenti con cui ogni tanto ci fanno sapere a posteriori gli sprechi del... Però il CNEL credo che abbia segnato, insomma tutta una serie di enti, di istituzioni, eccetera, che sono creati nel corso degli anni quasi a creare una specie di welfare per privilegiati, no? Se ne attaccano alcuni che sono diventati simbolici, ce ne sono molti altri che forse pesano di più, insomma. Non lo so, pesano altrettanto magari, ma insomma, che sono meno sulle pagine. È tutto cominciato con quel bellissimo libro di Rizzo e Stella, La Cassa, in cui abbiamo verificato il libro popolarissimo, giustamente di successo. Ma perché mette insieme una serie di cose concrete che, non so come dire, hanno un po' confermato quello che era il dubbio, e uno dice: caspita, c'è tutta quella roba lì. Sì, il quadro che emerge da quel libro, che poi emerge da decine, centinaia di inchieste dei giornali successivi, anche sul nostro, sull'Espresso che abbiamo fatto, eccetera, è proprio quello che in Italia si è creato una specie di welfare per privilegiati. Ripeto, quando abbiamo visto quel piccolissimo caso che era il ristorante del Senato, che poi l'inchiesta dell'Espresso ne ha fatto cambiare i prezzi, che aspetto simbolico c'era? Che si è creato in Italia, anziché il welfare per i poveri, anziché il welfare per chi ne ha bisogno, il welfare per i ricchi. Ed è lì che bisogna intervenire a scudisciate, no? Rienzi, qui i nostri ascoltatori se la stanno prendendo con i pensionati, sostengono che gli 80 euro non gli toccano. Io penso che per vedere gli sprechi non serve soltanto il libro La Cassa, perché basta vedere le leggi che dagli anni 50 in Italia si fanno per eliminare gli enti inutili, e non sono mai stati eliminati, cioè mai riusciti a eliminarli. C'è anche un elenco, no? L'abbiamo fatto più di una volta, ogni tanto lo aggiorniamo anche. C'è un elenco che è assurdo, cioè basta leggere i nomi di questi enti, la tutela del nonno dell'aviatore, insomma, adesso esagero, perché a mente non ricordo, che sono veramente ridicoli, e dagli anni, fino agli anni 50 che si cerca di abolirli, e invece sono sempre vivi lì. Adesso la prova di Renzi sta in questo, cioè dobbiamo vedere se veramente, veramente li eliminerà, perché sono miliardi di euro all'anno buttati, veramente buttati, per cose che non servono assolutamente a nulla. Queste sono le vere scelte difficili, perché vanno contro lobby potentissime. Allora, scrive un nostro ascoltatore, questo però è, siccome siamo partiti dagli 80 euro, giustamente, questo scrive un nostro ascoltatore: non sono distribuito al contrario, guadagno 690 euro al mese e non prendo niente, li prendono quelli che ne prendono 1400. Giglioli, questo è uno dei nodi, ma credo che lo stesso governo ne sia consapevole, quello dei famosi incapienti, che poi sono quelli che prendono meno di tutti e appunto non li avranno. Lì sì, si è detto di tutto, troveremo, non troveremo. Ci sono 4 milioni di italiani in questa fascia, cioè la fascia di quelli che prendono meno di 8.000 euro l'anno e che sono tagliati fuori, i più poveri di tutti, diciamo così, che sono tagliati fuori da questo provvedimento, sono tanti. Il fatto che c'è stato una piccolissima, come dire, un piccolissimo bluff, una piccolissima bufala dichiarazione con cui Renzi ha brandito questi 80 euro. Cioè lui ha detto tutti quelli che guadagnano meno di 25.000 euro... Che guadagnano meno ma di più dei famosi 8.000. Esatto, mancava questa stavetta in più. È una cosa bruttina, molto brutta, diciamo, perché quando si interviene per dare dei bonus bisognerebbe pensare soprattutto alla base della piramide. Però ripeto, meglio da... Ma cos'è stata? Inesperienza? Svista? No, da è dove... stato un calcolo politico, perché in Italia tutti gli istituti di ricerca e di sondaggi ci dicono che per ottenere dei voti non bisogna occuparsi dei poveri, che sono abituati a esserlo, scusate il cinismo, ma di coloro che si sono impoveriti, che quindi hanno subito la famosa classe media proletarizzata, è lì che bisogna intervenire, è lì, quello è l'elettorato mobile. E quindi è stato un calcolo politico. Quindi tu sei dell'idea di quelli che sostengono che è stato tutto una campagna elettorale per le europee? Ma non voglio dire questo. Se tu mi chiedi la scelta, perché la scelta è andata sulla fascia medio-bassa anziché su quella bassissima, la mia risposta è questa. Non credo che sia stata tutta. C'è stato anche sicuramente un desiderio di fare qualcosa. Ecco, la prova di Renzi, a proposito di quello che si diceva, la vera prova di Renzi secondo me è un'altra. La vera prova di Renzi è vedere se in questi anni in cui governerà, almeno fino alla fine della legislatura, lascerà questa cosa degli 80 euro e le cose simili come delle dazioni, quasi delle mance, della charity, oppure se le inserirà all'interno di un effettivo cambiamento di tendenza rispetto a quello che è successo negli ultimi 30 anni, cioè all'aumento della forbice sociale, all'impoverimento delle fasce medio-basse, alla lotta di classe dall'alto verso il basso. Ripeto, mi scuso della ripetizione. Però il concetto è proprio sempre più il concetto di forbice. Renzi, bastano gli abbassamenti dei manager pubblici insieme agli 80 euro? Assolutamente. Io non ci credo che si riuscirà a farli. Ha voglia di scriverlo sulla legge. Vedrete che troveranno un modo per sfuggire. Intanto ma c'è da dire che questo abbassamento rispetto all'ultimo prende una grossa fetta, perché non parliamo più solo dei presidenti, ma arriviamo anche a livelli più bassi. Ma va benissimo, ma faranno ricorso al TAR e poi alla Corte Costituzionale, siccome i giudici hanno paura di entrarci pure loro, perché c'entrano, manderanno la cosa alla Corte Costituzionale, dove altri giudici, come è stato l'altra volta, diranno che questa è una cosa incostituzionale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una guerra, è una vera e propria guerra nella quale bisogna schierarsi fortemente, perlomeno far vergognare queste persone. Forse attraverso un ragionamento di questo genere vi dovete vergognare di opporvi a questo taglio, forse qualche cosa si ottiene, ma se no ritorniamo sempre a punto da capo, non c'è niente da fare. E dipende ovviamente da come vanno i conti, però. Allora vado a cercarvi un'altra cosa che c'è questa mattina sui giornali e che magari un po' stupisce, perché si parla sempre, ad esempio, di Bolzano come una delle province virtuose. Allora, oggi Libero scrive: la casta altoatesina, ormai la casta è diventata una parola usatissima, spende 8 milioni in bon ton. Allora, i conti della provincia di Bolzano, che pare che di problemi economici ne abbia meno, organizzava corsi per i propri dipendenti. Allora, 10.000 euro in corsi di bon ton per i dipendenti provinciali, corsi per come si scrive una mail, comunicazione attraverso la mail, esatta ortografia, come gestire una telefonata di lavoro. Se andiamo a spulciare sui giornali, non è che è finita tutto qui, Giglioli. No, ce ne sono ancora di storie. Parlavamo della casta. Sono quelle che non sono, soprattutto che non arrivano sui giornali, o che arrivando sui giornali poi vengono sepolti il giorno dopo. Ce ne sono tantissime che riguardano, credo, più che altro la subcultura di questo paese, in cui ciascuno vede, parcheggia la macchina in seconda fila, no? Come si suol dire, non rendendo seconda, se parcheggiando la macchina in seconda fila a 3 minuti. Blocca quello dietro. No, blocca il casino del traffico, certo. Quindi peggiora la vita anche di se stesso, i suoi polmoni, no? Il problema è... quando pensa all'evasione fiscale, 120.000 di evasione fiscale, ognuno è convinto in questo modo di risparmiare qualcosa fregando lo Stato e non si rende conto che in questo modo manda a ramengo il paese in cui vive, cioè se stesso, la sua società, i suoi figli, i suoi cari, i suoi amici. Ma intanto sugli 80 euro vi dico che qui davvero tra i nostri ascoltatori 349-238-6666 la discussione si sta cominciando a vivacizzare, siamo svegli prontissimi i nostri ascoltatori anche in questa giornata così diciamo semifestiva. Si scatenerà la guerra sicuramente, chi lavora in azienda da tanti anni, scrive un ascoltatore, non li imprenderà perché i scatti di anzianità alzano lo stipendio. Io prendo 1550 euro, quindi proprio fuori di poco, e non li prenderò. Anche questa sarà una delle questioni, perché si è detto ad esempio gli scatti di anzianità annullano tutto. Staremo a vedere a chi arriveranno questi 80 euro. 6.45, nel frattempo vediamo come va il traffico e poi torniamo ancora con Carlo Rienzi e Alessandro Giglioli. 24 mattino. Noi abbiamo scelto, anche modificando l'impostazione delle ultime ore, di mantenere l'impostazione che avevamo dato il 12 marzo, perché è prevalso in noi l'obbligo di mantenere l'impegno come condizione di credibilità di fronte ai cittadini. Avevamo detto 80 euro, ebbene che 80 euro abbiano da essere. Che 80 euro abbiano ad essere. Un altro ascoltatore ci scrive questa mattina: Renzi tassa le rendite finanziarie, magari frutto di una vita di risparmi, dal 20 al 26%, poi ci dà gli 80 euro, tanto poi glieli ridiamo. Alessandro Giglioli, bisognerà appunto vedere come sarà il saldo finale con questi 80 euro. Tu che ne pensi? Penso che hai ragione, Anna, penso che lo scopriremo veramente soltanto fra 6-8 mesi. Intanto arrivano gli 80 euro che creano, come dire, non dico gioia, ma insomma sicuramente sollievo nelle tasche di alcuni milioni di persone. Poi dopo vedremo se questi 80 euro hanno peso, in questi 80 euro ce ne hanno tolti quanti, no? Anche perché poi bisogna vedere, gli 80 euro arrivano a chi ha una casa, a chi non ce l'ha, che reddito c'è, e sono calcoli. No, poi io penso soprattutto ai servizi, a dire la verità, io penso soprattutto a vedere se, come Italia, gli enti locali, che sono per adesso un po' vaghi, certo, peseranno poi, peggioramento, chiusura di asili nido, di case popolari, di servizi sanitari, di tutto quello che poi costituisce il welfare che vediamo di meno, perché quando non ci arrivano in tasca 80 euro ma aprono un asilo nido in più è welfare positivo, no? E quindi io mi chiedo o non si paga quell'analisi che si deve fare, la strada che funziona, e poi ognuno potrebbe metterci la sua, e poi insomma le tasse locali, vedremo se anche queste vanno in qualche modo a togliere alcuni degli 80 euro. Lo scopriremo solo vivendo. Intanto Renzi ha vinto la sua scommessa mediatica, era inevitabile che fosse così, ci ha messo talmente la faccia su sta roba che non poteva non darli almeno un po' di gente. Ecco, a proposito di scommessa mediatica, perché sul mediatico ci va veramente a nozze, adesso l'ultima polemica, detto che oggi poi si discute del lavoro in aula alla Camera, e quindi anche lì vedremo come andrà a finire il famoso decreto sul lavoro e cosa ne verrà veramente fuori. L'altra polemica che sta montando è questa cosa della partita del cuore a Firenze con Renzi, che con Emergency vorrebbe essere in campo. La Rai dovrebbe fare la diretta, i 5 Stelle non chiedono che non venga fatta perché è propaganda elettorale. Questa esposizione mediatica, questa Rai partite del cuore e quant'altro, anche lì ci vedi manovre in qualche modo elettorali o comunque calcolate? O anche questa è altro secondo te, Alessandro? Sì, guarda, io più che sulla partita del cuore vorrei fare una valutazione complessiva sul modo in cui i media hanno trattato Renzi negli ultimi 2-3 mesi, da quando è diventato segretario del PD e poi premier. Non c'è mai stata una uniformità così ampia favorevole all'esecutivo, favorevole al governo in Italia, non c'è mai stata. Cioè i mainstream media si sono schierati tutti a favore di Renzi in modo più o meno profilato, perché Renzi viene visto come l'ultima spiaggia del sistema, l'ultima spiaggia dell'establishment, quello oltre il quale, dicono loro a torto o a ragione, c'è solo l'antisistema, c'è solo i forconi piuttosto che Grillo, piuttosto che l'ignoto, e allora c'è stato uno schieramento favorevole al Premier, inedito in questo paese, perché persino ai tempi di Berlusconi, come sappiamo, la stampa e i media erano divisi radicalmente in due. Forse solo ai tempi della solidarietà nazionale, ai tempi del governo DC PC nella metà degli anni 70, qui hai messo. Torniamo indietro, Torniamo indietro, Forse solo allora c'era stata una cappa così omogenea. A me questo non piace, indipendentemente da quello che fa Renzi. Non trovo sano che in una democrazia ci sia così poca difformità di pensiero. Allora, Renzi, abbiamo ancora qualche minuto? Sì. Renzi è furbo, ma qual è il problema? Non c'è niente da scandalizzarsi. Io ho detto l'altra volta nella vostra trasmissione che copia i Bergoglio, il Papa, che è stato bravissimo, non per furbizia, perché lui non ha interessi a mandare avanti uno Stato come il nostro, insomma, quindi ha interessi ad accaparrarsi le anime, sa bene. Ma lui è Bergoglio ha le sue di battaglia, eh? In questi giorni sui giornali c'era pieno di descrizioni di questo nuovo appartamento di Bertone da 700 metri quadri con terrazza proprio a fianco del bilocale del Papa, se vogliamo proprio raccontare anche queste. Sì, appunto, cioè, come mai escono poi queste notizie dal Vaticano così precise, come mai esce la notizia che lui telefona nel convento e c'è la segreteria telefonica, c'è un'attentissima regia, come c'è per Renzi. Ora Renzi vuole andare a fare la partita, la vada a fare, ma lei l'ha sempre trasmessa, ma naturalmente farebbe meglio a non farlo, perché che senso c'ha? Cioè devi per forza andare a far vedere che sei sempre come prima, che sei un cittadino come tutti, eccetera, eccetera. Un presidente è così, deve fare il presidente così. Deve passare la giornata della partita a pensare a come risolvere i problemi italiani. Non possiamo continuare a giocare con i media e a fare queste sceneggiate che poi dovrebbero portare simpatia. Anche durante la partita, è un po' come le foto di Berlusconi in questi giorni a Pasquetta a fare riunioni e conti. O un fiato possiamo prendercelo, che dici? No, sì, ma non attraverso una trasmissione RAI che poi... Questo è il discorso, non è tanto la partita. Ma non è un fiato, appunto, è una regia della propria immagine. È questo più che la partita. Esatto, allora, tra una partita e occuparsi dei problemi degli italiani, si occupa dei problemi italiani, poi si vuole riposare, se ne va da solo in campagna a raccogliere le fragole che adesso stanno uscendo e fa la persona seria. Cioè, non mi sembra il caso che si esponga in questo modo esagerato per acquisire consensi basati su che cosa poi? Su una finta normalità, non perché non sia una persona normale, perché un Presidente del Consiglio non può essere una persona normale, non deve esserlo, deve essere una persona che ha una sua aplomba, un suo atteggiamento formale che è diverso da quello di qualsiasi comune mortale. Mi dispiace, io sono di questa opinione. Allora, sempre nettissimo, i nostri ascoltatori ormai lo sanno, sempre netto, diciamo, in queste dichiarazioni. Abbiamo ancora due minuti, io vi lancio veramente 30 secondi una battuta. Oggi è una di quelle giornate canoniche in cui si ricorda qualcosa, eh? Oggi è la giornata della Terra. Tra l'altro molti di quelli che lanciarono i primi allarmi sulla Terra oggi sui giornali si sprecano, i mea culpa, forse abbiamo esagerato, forse abbiamo lanciato troppi allarmi, non abbiamo combinato nulla, abbiamo solo messo troppa paura e non si è fatto nulla. Una battuta velocissima ad entrambi. Servono queste giornate? Questa giornata oggi ricordiamo la Terra? Alessandro. Guarda, mi ricollego al discorso di prima su Renzi. Il carisma non è il pregio di un politico, ma è il difetto di un popolo. Cioè siamo noi che attribuiamo il carisma per servilismo. Lo stesso vale per tutto quello che si diceva prima, per l'evasione fiscale, per la casta e per la terra. Cioè sono i comportamenti individuali dei cittadini, individuali e collettivi, delle persone che fanno una società, che fanno una politica, che fanno un ambiente, che fanno un habitat vivibile, ecologico sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista civile, politico, eccetera. Sta a noi, è ciascuno di noi che deve essere il cambiamento che vuole vedere nel mondo, come diceva Gandhi, no? Quindi questo vale per la terra così come per la politica. Come per la politica. Renzi? Se la giornata della Terra si svolgesse in tutte le scuole, dalle elementari in su, allora siamo per far capire ai ragazzi sì, quello che significa il volo della terra, e poi il 30 di maggio ci fosse il 31 un'altra giornata contro il tabagismo, il fumo, i danni da fumo eccetera nelle scuole, avrebbe sicuramente qualcosa. Cominciamo dal basso. Allora, grazie. Io chiudo solo con un sms di un nostro ascoltatore. La partita ci vadano tutti, anche Grillo e tutti quanti, facciamola finita lì. Beh, vedremo. Magari potrebbe essere questa un'idea di par condicio. Grazie nel frattempo Carlo Rienzi, Alessandro Giglioli, grazie per essere state con noi. Buona giornata. GR24 e poi, come sempre, lo sguardo ai giornali. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E ben svegliati, 7 e 16 minuti. Alessandro Milan però non c'è. Non c'è, qualche giorno di ferie se l'è meritato anche lui, ma i giornali ci sono puntuali. Buongiorno da Anna Migliorati. Peter Bescapè invece è qui puntuale con noi anche questa mattina. E allora, lo sguardo a quelli che sono i temi di oggi. Giornali che vi dico questa mattina hanno aperture un po' diverse. Sono quelle giornate a metà tra il festivo e l'avvio della settimana in cui tiriamo fuori un po' di temi su cui cominciare a riflettere. Bene così. E allora, una carrellata comunque, cominciare questa mattina dalla Stampa di Torino, che punta su quello che sarà il test politico innanzitutto, ma non solo per il governo Renzi. Test lavoro, sfida sulla flessibilità. Perché? Perché oggi arriva in aula alla Camera il voto che si annuncia di fiducia per il governo Renzi sul lavoro. Ma siccome in commissione il testo licenziato dal governo è stato ampiamente cambiato, si vedrà quale sarà la maggioranza variabile che questa volta appoggerà il governo Renzi. Sfida sulla flessibilità, una partita tutta politica, così scrive oggi la Stampa. La battaglia del lavoro, anche l'Unità, con i dati drammatici dell'Istat che ieri hanno fatto sapere che oltre 1 milione di famiglie vive senza salario, il 56% in più di 2 anni fa. Ed ecco allora il manifesto: lavoro fuso, più di 1 milione di famiglie senza reddito. E oggi il governo chiude le storiche acciaierie di Piombino, a rischio altri 4.000 lavoratori, mentre la Camera debutta, dicevamo, il decreto Poletti. Ultimatum di Poletti, pronta la fiducia sul decreto, scontro sul testo anche per il Messaggero, che però questa mattina l'apertura la dedica tutta a Roma, il piano per Roma, con un'intervista al ministro dell'Interno Alfano, la leggeremo tra poco. La Repubblica, anche qui c'è il tema del DL lavoro in aula, ma l'apertura è il piano segreto per tagliare gli F-35, via la metà degli aerei. Il governo ha deciso, ne saranno acquistati solo 45, così scrive la Repubblica. Corriere della Sera, acquisti e viaggi, dati del fisco, scatta oggi lo spesometro, controlli sopra i 3.600 euro e nel decreto IRPEF i costi nascosti per famiglie e imprese, così scrive il Corriere della Sera. Anche qui c'è in prima pagina la lite sul testo del lavoro e il voto di fiducia, perché questo sarà sicuramente il tema politica di giornata. Altro tema però su cui lo scontro da ieri è accesissimo, ancora una volta il tema dell'immigrazione di Mare Nostrum. La Padania attacca duramente, invasione senza fine, altri 1.200 clandestini sbarcati in Sicilia, costano agli italiani 300.000 euro al giorno. Paghiamo gli sbarchi, 300.000 euro al giorno, anche il giornale, che si allinea alla battaglia di Matteo Salvini, che sapete ieri ha chiesto di abolire Mare Nostrum. E il quotidiano nazionale anche qui ci mette la sua: migranti, allarme, strutture al collasso. Tema principale per QN, redditi, allarme famiglie, e anche qui in aula il decreto lavoro tra le polemiche. 1 milione di famiglie povere, Renzi, a queste chi ci pensa, così il Fatto Quotidiano, anche qui i dati sconvolgenti dell'Istat. E l'altra polemica di giornata, Matteo Goleador in diretta TV, e la RAI non può farlo, il tema è quello di Matteo Renzi, che pensa di essere presente alla cosiddetta partita del cuore, e c'è già chi parla di spot TV. Spuntano tre tasse nascoste, l'apertura di Libero per coprire gli 80 euro elettorali, pronti tagli lineari e aumenti di accise su carburanti e tabacchi, così scrive Libero. Trappola per i risparmiatori, il prelievo retroattivo sulle rendite oppure una scommessa al buio. E Avvenire, anche qui si parla comunque di IRPEF e contratti in pressing sull'esecutivo, il lavoro oggi in aula, ma c'è anche un altro tema ed è quello ancora del cosiddetto quoziente familiare. Lo faccia davvero, dice Renzi, che ieri ha promesso appunto di intervenire anche sulle famiglie, anche se vedremo dai giornali di oggi non è proprio un quoziente familiare quello a cui pensa Renzi. Il Sole 24 Ore, Padoan apre il fronte della CIG, della cassa integrazione, anche qui risorse da trovare nei prossimi mesi, no a manovre aggiuntive, scrive il Sole 24 Ore. Questa la carrellata, però dicevamo il tema sicuramente su cui oggi lo scontro ci sarà, sarà quello del lavoro. Allora, il commento che andiamo a leggere è quello sulla prima pagina della Stampa di Walter Passerini, una partita tutta politica, e questo forse è l'unico punto su cui un po' tutti sono d'accordo quest'oggi. Nessuno poteva immaginare che lo scontro annunciato su contratti a termine e apprendistato sarebbe potuto davvero diventare la minaccia per una nuova crisi politica. Oggi vedremo se Matteo Renzi riuscirà a evitare l'ostacolo. Non sappiamo se in queste ore, prima della battaglia, il Presidente del Consiglio con il suo fido Ministro del Lavoro Giuliano Poletti abbia riletto L'arte della guerra di Sun Tzu o Il principe di Machiavelli. Ma la prova della verità è alle porte. Nelle prossime ore sapremo se avrà la stoffa del leader o, come dice velenosamente l'Economist, del grande imbonitore. Così Walter Passerini sulla Stampa. Fiducia sicuramente politica, l'udità durissima, potrebbe essere oggi il giorno della vera fiducia politica. In altri casi si è arrivati alla blindatura per ragioni tecniche sul decreto lavoro, su cui l'aula di Montecitorio comincia a votare. Il governo rischia di esporsi davvero a un fuoco incrociato e vedremo se sarà così. Abbiamo detto lavoro, i famosi 80 euro, questa è la settimana in cui il provvedimento dovrebbe arrivare in Gazzetta Ufficiale e quindi gli 80 euro poi di conseguenza nelle buste paga, ma i soldi sono da trovare, su questo la discussione è ancora apertissima. E allora la Repubblica oggi scrive che torna sulla questione degli F-35, i tagli alla difesa e soprattutto all'acquisto degli aerei F-35, tema sulla quale il dibattito è sempre apertissimo. Secondo quello che scrive oggi la Repubblica, dovrebbero scomparire la metà degli aerei, solo 45 invece di 90 da acquistare. Ma c'è un ma, perché andiamo a pagina 2 della Repubblica di questa mattina, e c'è l'allarme. È a parlare il generale Vincenzo Camporini, ex capo dell'aeronautica e poi della difesa, oggi vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali, che dice: attenti però, non andiamo a colpire le industrie italiane, perché siccome, dice, credo che l'Italia voglia continuare ad avere delle forze armate, bisogna informare e ragionare correttamente sugli F-35. Io dico una cosa, gli impegni economici che si prendono sono relativi ai singoli lotti anno per anno, e quindi non c'è bisogno di annunciare oggi quanti se ne compreranno a raffine. Se però oggi annunciamo un nuovo taglio drastico nel numero totale, ci spareremo nei piedi, avremmo solamente una riduzione immediata di cosa? Dice in questa intervista a Repubblica il generale Vincenzo Camporini, del lavoro per le nostre industrie. Ed ecco che quindi anche su questo annuncio sicuramente la discussione non mancherà. Dicevamo, soldi da trovare, e allora come trovarli? Ancora una volta il Corriere della Sera oggi in apertura va dritto ad un'altra questione: i dati del fisco, l'evasione fiscale, i controlli, scatta oggi lo spesometro. Spesometro che come dovrebbe funzionare, giusto per darvi qualche indicazione. Pagina 5 del Corriere della Sera. Gli acquisti che fanno scattare le segnalazioni saranno quelli per cifre pari o superiori ai 3.600 euro. Quindi pacchetti viaggio, gioielli, iscrizioni a club sportivi, abbigliamento, accessori di lusso. Per professionisti autonomi la soglia dei 3.600 euro non varrà per lo spesometro. Per queste categorie ci sarà l'obbligo di segnalare tutte le operazioni, anche se di modesta entità. Così scrive e ci ricorda il Corriere della Sera. Soldi, dicevamo, taglio degli F-35, spesometro, ma sentite un po', c'è un altro tema che ancora non si chiude. Avevamo detto, abbiamo parlato molto del famoso CNEL, uno degli enti che si è detto verrà chiuso, qui si possono trovare soldi, si può risparmiare, si può far diventare stabile quegli incentivi, anche quei famosi, anche i famosi 80 euro con dei risparmi sostanziali. Ebbene, allora, il CNEL non ci sta, prova a salvarsi in extremis, scrive oggi il Corriere della Sera. E sentite un po' come. Tagliando il geriatra, leggiamo dal Corriere della Sera. L'età media è altissima, si viaggia intorno ai 65 anni, un paio di consiglieri superano persino quota 80, sotto i 50 non c'è nessuno. Deve essere per questo che il CNEL, scrive Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera, aveva tra i suoi consulenti anche un geriatra. Non un esperto al quale affidare uno studio sul ruolo degli anziani nelle economie avanzate, ma proprio un medico di fiducia, un dottore disponibile una volta la settimana per dare una controllatina agli attacchi dei consiglieri, il tutto per 40.700 euro lordi l'anno. Taglia il geriatra, il CNEL, tra i varie consulenze per provare a salvarsi, così almeno scrive il Corriere della Sera. 24 mattino. Minuti ci siamo, eccoci qua ancora con i giornali di oggi e le principali notizie. L'altro tema di scontro fortissimo in queste ore è il cosiddetto Mare Nostrum, la missione italiana per rendere più sicura il Mediterraneo e quindi evitare che ci siano altre Lampedusa, come si è detto. Missione italiana e missione europea, ma a quanto pare molto costosa per noi. Questa almeno la polemica che è esplosa, era già sotterranea nei giorni scorsi, ne abbiamo già parlato, ma è veramente esplosa con la giornata di ieri. Nuovi sbarchi, l'Italia non ha più risorse. Taglio centrale del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini ci racconta i numeri. Sono 21.728 i migranti approdati in Italia fino a ieri e le risorse per l'operazione Mare Nostrum sono già finite. E ricordiamoci, siamo ad aprile, quindi sono già finite, ma comincia adesso il bello, con la bella stagione, come si suol dire. Arriva l'appello all'Europa, servono 9 milioni al mese, ma Lega e Forza Italia chiedono di fermare la missione. Dicevamo, la polemica è altissima. La Padania oggi a tutta pagina pubblica una foto di Alfano e dei barconi in arrivo. Invasione senza fine, scrive la Padania. Il finto buonismo di Renzi Alfano costa agli italiani 300.000 euro al giorno, soldi spesi per aiutare gli scafisti e incentivare gli sbarchi. Il Carroccio chiede le dimissioni del ministro e presenta una proposta di legge per lo stop immediato a Mare Nostrum. Per un Salvini che ieri è stato durissimo, altrettante polemiche ci sono anche da altre parti. Anche il Giornale a questo dedica oggi l'apertura. Paghiamo gli sbarchi, 300.000 euro al giorno, i contribuenti costretti dal governo a sostenere l'invasione dei clandestini. E anche qui vengono sciorinati dati un po' di tutti i tipi, i 13,2 milioni le risorse stanziate da Bruxelles, anche per Frontex, la missione destinata al controllo delle frontiere, 54 milioni la cifra spesa dal governo italiano negli ultimi 6 mesi per garantire la missione Mare Nostrum. Bruxelles vieta l'Italia i respingimenti, scrive ancora polemico il Giornale, mentre Londra e Berlino preparano l'espulsione degli europei senza lavoro, perché il Giornale se la prende sì con Mare Nostrum, ma se la prende anche con l'altro tassello, vale a dire Frontex, il controllo delle frontiere. e scrive questa mattina il giornale, il primo ad ammetterlo, il ministro della difesa Roberta Pinotti, che sottolinea la disparità tra i fondi destinati da Frontex, l'agenzia di Bruxelles per il controllo delle frontiere, e i soldi di tutti gli italiani. 17 milioni, fatto sta che non c'è più un euro in tasca e adesso comincerà davvero il bello. C'è un immigrato che in Italia è passato, a cui però la vita è cambiata. E perché vi dico questo? Perché sui giornali di oggi campeggia, tra le altre, un'immagine, ed è quella del vincitore della maratona di Boston. Ricorderete, maratona un anno fa, con tanto di attentato e di vittime. Ebbene, ieri non è successo, grazie al cielo, nulla. E chi ha vinto? Ha vinto la maratona di Boston, leggiamo da QN, quotidiano nazionale, ma lo trovate anche sulle prime pagine oggi di molti giornali. Chi ha vinto? Ha vinto un ex rifugiato in Italia, nato in Eritrea, diventato cittadino, passato in Italia coi barconi, arrivato, diventato ora cittadino americano, ieri ha vinto la maratona di Boston, vince l'America, così l'immagine, con tanto di bandiera sulle spalle, ma è passato anche lui dalle coste italiane. Allora, 7:34 minuti, abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato della polemica sull'arrivo degli immigrati, c'è un altro tema di cui si occupano molto oggi i quotidiani, di cui ancora sentiremo parlare, ed è quella della sicurezza. Il piano per Roma, così il Messaggero questa mattina pubblica una lunga intervista al ministro dell'Interno Alfano, che dice: va riportata subito la legalità nella capitale, città da pulire, basta spaccio, movida violenta, cortei in centro, più videosorveglianza. Sarà stato le manifestazioni, l'ultima manifestazione per la casa. Fatto sta che il tema di Roma e del suo futuro si è sicuramente riacceso. Un piano speciale per Roma lo ha annunciato il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Al Messaggero quest'oggi spiega: dobbiamo ripulire la capitale da spacciatori e delinquenti, basta con la piaga del commercio abusivo. E poi aggiunge: la città deve tornare ad essere pulita. Quella che percepiscono i romani, secondo Alfano, è una deriva senza fine. Subito nel mirino spaccio, prostituzione minorile, abusivismo commerciale e manifestazioni nel centro storico. Ed ecco che per Roma, dice Alfano, dovrebbe arrivare più videosorveglianza. Manifestazioni, dicevamo, che hanno sicuramente contribuito ad accendere il dibattito su Roma, e a questo è dedicato oggi anche il commento in prima pagina del Corriere della Sera, che torna ancora la famosa manifestazione per la casa. I limiti della libertà di manifestare, scrive Antonio Polito, quel corteo per l'illegalità. Ne leggiamo solo qualche brano. Racconta la cronaca di Roma che i cosiddetti movimenti si preparano a sfidare già nelle prossime settimane di nuovo la polizia. In palio c'è il controllo, un tempo a sinistra si diceva agibilità politica, ma poi l'espressione passata di mano, della capitale. Si sentono sfidati dalle dichiarazioni del ministro dell'Interno Alfano, che ha minacciato di chiudere piazze e vie del centro storico di Roma ai cortei a rischio di violenza, e vogliono fargliela vedere. Ancora altri temi, altri motivi di inquietudine, di discussione, altri ce ne sono. Intanto ve ne cerco uno, lasciamo un attimo l'Italia. Il foglio questa mattina, sentite un po' cosa scrive. Andiamo in America, nella Silicon Valley, patria del grande liberismo. Ebbene, la Silicon Valley ha tradito i suoi talenti e lo spirito americano. Cosa è successo? Vi leggo dal Foglio. Secondo le carte di un processo che dovrebbe iniziare il mese prossimo, ma la cui documentazione è stata rilasciata solo di recente, tra il 2005 e il 2009 dentro la Silicon Valley ci sarebbe stato un grandioso cartello. Per cosa? Un cartello per cosa? Non per non farsi concorrenza, ma per evitare di rubarsi a vicenda gli impiegati migliori. Parliamo di Apple, Google e poi ancora l'idea sarebbe stata addirittura di Steve Jobs, la Pixar, solo Facebook sarebbe fuori, per evitare di rubarsi gli impiegati migliori. Perché, direte voi, per mantenere un alto livello di azienda? No. prima di fare un'offerta a un ingegnere di un'altra compagnia si deve chiedere il permesso. Se i migliori talenti non sono contesi, infatti, non c'è bisogno di rilanciare sulla loro busta paga. La storia del cartello nasce da una vecchia indagine e ora 64.000 tra programmatori e ingegneri della Silicon Valley hanno organizzato una grande class action contro i loro datori di lavoro. Niente concorrenza, non rubiamoci gli impiegati, perché così non siamo costretti a fare cosa? Ad alzare le buste paga. Così succede anche e succede in America. Ancora, dalle giornali di oggi, andiamo invece a proposito di concorrenza, su chi la concorrenza pare non la voglia fare ancora, per vecchi modi di vedere probabilmente. Corriere della Sera, pagina 22, perché le ragazze non scelgono le materie tecnico-scientifiche? Questo è un tema che ogni tanto ritorna, qualche indagine che ogni tanto ritorna. C'è un ennesimo nuovo rapporto, decisive le difficoltà economiche, il figlio maschio è ancora privilegiato, il ruolo a sorpresa però, scrive oggi il Corriere della Sera, delle madri che sono ancora legate ai modelli della loro infanzia. Insomma, anche qui saranno ancora le donne a non voler rilanciare il lavoro delle donne, un altro tema che ogni tanto riaccende anche questo, la discussione. Sono le 7:40 minuti, siamo puntualissimi, non sei in vacanza neanche tu, è così? Mauro Meazza, sono le 24 ore, buongiorno, anche tu no, qui. Buongiorno, no, non sono in vacanza, contrariamente ad altri che invece... Che salutiamo. Salutiamo sempre, naturalmente, ma penso che lui non sia in vacanza, perché forse sta studiando sulla pagina del condominio che è uscita oggi con sicuramente. Il 24 ore. So che d'altra parte molto... teme la tua interrogazione, quindi sarà sicuramente non so dove, ma a studiare. Ecco, allora però se lo sentite ditegli che oggi su Sole 24 ore, oltre alla pagina di condominio, che peraltro ha un articolo molto interessante perché parla anche del coinvolgimento degli inquilini nelle assemblee di condominio, quindi questa sarà già una domanda che gli verrà posta in sede di interrogazione, naturalmente, però c'è anche tutta una pagina dedicata alla casa, perché è pronto il decreto sugli aiuti per la morosità incolpevole, cioè chi non riesce più a pagare l'affitto può avere accesso a dei fondi, chi non ci riesce più perché sono mutate le sue condizioni economiche. Il decreto sta arrivando lentamente, arriverà si spera a breve, e ne diamo le anticipazioni oggi sul Sole 24 Ore, cara Anna. E volevo dirti, oggi poi con il Sole 24 Ore c'è anche un po' di fantascienza, no scherzo, insomma c'è il dizionario dedicato ai fondi pensione, alla pensione, soprattutto alla pensione collettiva di secondo pilastro, i fondi pensione e quella individuale, quindi parliamo di costruirsi un po' la pensione da soli, quali sono i termini da conoscere per supplire con il secondo e il terzo pilastro al venir meno delle tutele del primo, cioè quello standard, quello della previdenza obbligatoria. Ci possiamo dare qualche altro consiglio di lettura? Assolutamente, io ho visto un taglio centrale che mi incuriosiva molto, facciamo il pieno di grandi opere dagli altri questa volta, Mauro. Sì, effettivamente lo riferisce bene Marco Morino, abbiamo vinto un bel po' di gare, vabbè è un plurale, non riguarda me. Prendiamocela troppo, dai questa... Diciamo, come italiani siamo presenti molto nella costruzione di grandi opere, quindi si intende autostrade, metropolitane e quant'altro, grandi opere però degli altri. Appunto c'è una mappa, una sorta di mappa anche sulla prima pagina di Imprese e Territori, delle pagine delle dalla metro di Lima a Panama, al terzo ponte sul Bosforo, insomma ci portiamo a casa 35 miliardi di appalti all'estero, non è sì, male. Ecco, qui purtroppo il ci portiamo viene un po' meno, nel senso si portano, però sì, noi come italiani, ecco, dimostriamo di piacere nella costruzione di grandi opere, però appunto meno nella costruzione di grandi opere in patria effettivamente. Pensavo tu mi chiedessi invece dei decreti attuativi che segnano un po' il passo. Assolutamente, assolutamente. Sai che noi facciamo sempre questo. Sarebbe stata la prossima domanda, rallentiamo. La prossima curiosità, lo so. Però. Oppure della voluntary disclosure, perché magari anche tu hai scordato dei fondi all'estero. Alessandro, torna presto. No, ma può capitare, è una dimenticanza, non si deve colpevolizzare nessuno, però perché volevo dirti che questa settimana ci sarà appunto una riunione decisiva per capire che fine fa questo procedimento di voluntary disclosure, cioè insomma uno si ricorda di aver lasciato dei fondi all'estero e si è scordato di dirlo al fisco, purtroppo può capitare, sono mesi che possono capitare, si sta studiando un sistema per rimediare a queste amnesie. E no, ti dicevo invece dei decreti attuativi, siamo purtroppo arrivati a 500 provvedimenti da varare in lieve incremento, questo non è un buon segnale perché poi appunto le norme restano lettera morta, insomma non riescono a diventare concreta, insomma. Sì, ad avere efficacia. E naturalmente tutto sul decreto IRPEF, tasse sul risparmio e quant'altro, ma immagino che già nella prima parte della trasmissione tu abbia avuto modo di... È un po' il tema di queste ore, aspettiamo, sì, insomma. Sì. So che poi tu, a differenza di Alessandro, sei molto preparata anche sulle questioni fiscali. Aiuto, Alessandro, dove non sei? Non ti voglio, no. Invece, guarda, chiudo con una segnalazione, questa sarà anche la settimana delle trimestrali di alcuni big del digitale, quindi Facebook, Amazon, Microsoft e così via, riferiamo nelle pagine di Finanza, dove peraltro ci sono anche delle anticipazioni sul CDA di Alitalia, oggi molto importante. E quello sì, assolutamente, con le richieste di Etihad che arriveranno in consiglio e si vedrà cosa succederà per Fiumicino. Su questo allora, sono preparata però, punto, dai. Siamo a questo punto sulle questioni di movimento, di movimentazione, quindi forse è anche il mio momento, se vuoi condividere il saluto abituale. Vai, è tutta tua. Traffico! E noi torniamo con i giornali, quest'oggi in edicola e con l'altra polemica di giornata, ve ne aggiungiamo ancora una. Ne abbiamo già parlato nella prima parte, ma ci torniamo ed è la presenza di Matteo Renzi in TV del Premier durante la cosiddetta partita del cuore, organizzata in questo caso da Emergency, ma anche con molti giocatori della Fiorentina, ed ecco che allora il Premier vuole esserci, ma la Rai vuole fare la diretta, ed ecco allora che molti insorgono, a cominciare dal Movimento 5 Stelle, ma non solo, che dice questa è propaganda. Ad accomunare questa polemica il Fatto Quotidiano è Libero. Il Fatto Quotidiano, Matteo Goleador in diretta TV, escluso, la Rai non può farlo. E ancora Libero, Renzi scorretto a gamba tesa in TV sulle elezioni, diretta Rai per la partita con lui e Baggio. La sfida del cuore per Emergency allo stadio Artemio Franchi di Firenze con tutti i grandi della sua Fiorentina. Andiamo nelle pagine interne il Fatto Quotidiano, perché c'è questa aspra polemica. La Rai non può fare la diretta con Renzi per la partita del cuore, dice il presidente della vigilanza Rai, che ricordiamo è Roberto Fico. Movimento 5 Stelle, la presenza di politici nelle trasmissioni sportive, dice, è sconsigliata anche fuori dal periodo elettorale, figuriamoci ora che si va a votare. E allora, nessuna deroga, nemmeno per una partita che sia del cuore, quindi per raccolta fondi, dice Fico, che aggiunge. Poniamo il caso che la Rai confermi la diretta con Renzi. Che succede? Sono sicuro che la presidente Taranto e il direttore generale conoscano la legge e l'applicheranno, ma... Incalza ancora l'intervistatore, facciamo un esempio di scuola. Se succedesse, la commissione potrebbe discuterne nell'ufficio di presidenza che viene convocato da me o su richiesta anche di un singolo membro. E in quel caso, cosa direste alla RAI? Non ci sarà bisogno di intervenire, dice Fico, che però è sicuramente netto. La partita non sa da fare, almeno con Renzi e diretta TV. Vedremo che succederà. Nel frattempo, restando in tema di Rai, restando sul Fatto Quotidiano, pare che in Rai stiano arrivando tagli. Pare, ancora una volta, pare porta a porta, e Vespa questa volta nel mirino, destinata a perdere una delle serate, al suo posto un programma condotto da Duilio Giammaria e poi Renzo Arbore. da ottobre la sforbiciata di una delle puntate più importanti per Vespa, scrive oggi il Fatto Quotidiano, motivo il taglio dei costi, perché pare che la puntata del giovedì costi e costi cara alle casse della RAI. Oggi giornata della terra, anche questo è un tema che troverete un po' su vari quotidiani, cosa cambia al nostro pianeta, l'allarme, i vari allarmi lanciati negli anni scorsi, la terra a rischio, ebbene quando ormai il messaggio in qualche modo sembra un po' digerito da tutti, a fare marcia indietro pare essere proprio chi in origine questo allarme l'ha lanciato. Andiamo su La Repubblica. Il pentimento dell'ecologista, più ottimismo sulla terra, il mea culpa arriva dagli scienziati, troppi messaggi negativi non salveranno il pianeta. Dove abbiamo sbagliato? La lotta al cambiamento climatico non fa progressi, l'opinione pubblica sembra confuso, stanca, i governi perdono tempo, la colpa è anche nostra, è The Earth Institute presso la Columbia University di New York, che è sempre stata una delle più accese sostenitrici di queste giornate e di queste campagne a scriverlo. Un centro con 56 scienziati distribuiti in 12 laboratori di ricerca, 3 campus, all'avanguardia nella misurazione degli oceani. La colpa è anche nostra, scrivono ora, la comunità scientifica e gli ambientalisti hanno sbagliato strategia, abbiamo usato messaggi controproducenti. Tutta la comunicazione su questi temi va ripensata in una chiave positiva. Nella giornata mondiale per salvare la Terra, un bilancio severo nel più grande centro studio internazionale dedicato al clima, all'ambiente e all'energia. Basta lanciare messaggi negativi, è così che non si lancia la terra, sarà davvero vero, fatto sta che questo sicuramente è uno dei temi più intriganti tra i molti che trovate oggi sui giornali per ricordare questa giornata internazionale della terra. Altri temi c'è ancora oggi, di temi ce ne sono parecchi. Allora vi faccio ancora un po' arrabbiare, tornando ancora su Libero, che torna per l'ennesima volta a parlare di tagli di costi e di sprechi. E attenzione, questa volta non siamo al sud, non siamo neppure in Lombardia o in Piemonte, siamo nella provincia di Bolzano, scrive quest'oggi Libero. La casta altoatesina spende 8 milioni in bon ton. Ebbene, pare che la provincia di Bolzano ancora problemi di conti e di soldi non ne abbia. 8 milioni e mezzo spesi nel 2013 in incarichi esterni tra i quali vado a leggere 10.000 euro in un corso di bon ton per i dipendenti provinciali, uno su come scrivere una mail, un altro sulla comunicazione attraverso la mail, un altro sulla comunicazione con i cittadini e un altro ancora su come si gestisce una telefonata di lavoro. Magari in molti avremmo anche bisogno di impararlo, ma fatto sta, un corso da 13.000 euro per inviare mail e incarichi da 80.000 euro dati anche a pensionati, forse si sta, hanno un po' esagerato. Fatto sta che se volete saperne di più, Libero questa mattina racconta l'ennesima storia di questo tipo. Storia che altrettanto non ci fa onore, però a Bruxelles ricordiamoci pur sempre che siamo alla vigilia del voto per le europee, andiamo ad eleggere i nostri eurodeputati che andranno a Bruxelles e si spera fare una bella figura, si spera, perché l'inchiesta oggi del Messaggero a pagina 6 cosa ci dice, che eccola anche qui l'ennesima classifica. Italiani in testa, sì, ma per assenteismo. I nostri 73 eurodeputati sono al 24esimo posto su 28 paesi, in 22 non hanno prodotto alcun atto e sono stati sempre più assenteisti. L'Austria in testa, peggio di noi chi c'è? Eccoci lì, i nostri compagni di viaggio, ciprioti, greci, lituani e maltesi, c'è chi ha fatto assenze del 98% all'Europarlamento, per il quale ora ci si sta accapigliando per ottenere un posto. Al 7:54 minuti, 30 secondi, allora un minuto e mezzo ce l'abbiamo ancora, allora io vi lascio così per riflettere ancora in questa giornata. L'ultima provocazione: vi sentite belli o brutti? Attenzione, non è una domanda retorica, è importante saperlo. Siete vi sentite belli o vi sentite brutti? Perché? perché pare che la prossima evoluzione della specie andrà in questo senso. Ci divideremo in due specie, i belli e i brutti, così almeno scrive il Corriere della Sera, pagina a fondo pagina. La selezione del partner modificherà il genere umano. Tra 100.000 anni, per cui prendetevela pure con calma, ma cominciate a farci una riflessione. Che cosa ha in serbo per noi l'evoluzione biologica? Come diventeremo? Ebbene, secondo un evoluzionista della School London of Economics, prevede che nel giro di 100.000 anni, in seguito alla selezione dei partner, la nostra specie si dividerà in due sottospecie, costituite una da individui alti, slanciati, sani e intelligenti, e tutti vorremmo essere lì, ma l'altra di individui poco brillanti, brutti e sgraziati. Pensateci, rifletteteci, perché bisognerà vedere da che parte staremo. Vi lascio con questa riflessione, la rassegna stampa di oggi si conclude qui, noi ci ritroveremo però tra pochissimo, parleremo di Venezia, delle grandi navi che devono o non devono entrare in laguna, tutto questo naturalmente dopo il giornale radio. 24 mattino. Se non voti ti fai del male, fino a quando il comune di Venezia non fermerà quei mostri che galleggiano giganteschi, orribili navi che sembrano palazzi, che devastano la laguna. 8 e 18 minuti, buona giornata da Anna Migliorati. In principio fu Adriano Celentano, sabato 21 settembre, una pagina sul Corriere della Sera per raccontare quella che era diventata ormai il tormentone, le grandi navi in laguna a Venezia. Ti fai del male, così canta Adriano Celentano. Ebbene, in principio ancora fu l'incidente al Giglio e quelle immagini che svelarono al mondo grandi navi che entravano in laguna e che entrano tuttora in laguna, perché nel frattempo di tutto è successo. C'è stato il cosiddetto decreto Clini Passera inattuato, c'è stato l'intervento del governo Letta che avrebbe dovuto dare lo stop all'ingresso delle grandi navi, il TAR che è intervenuto e ha bocciato tutto questo. E nuova udienza ci sarà a maggio, ma c'è un ma. Ne parliamo oggi, tra l'altro l'avete anche sentito, giornata internazionale della terra, perché tra un decreto lavoro, un bonus 80 euro, un IRPEF e quant'altro, il governo Renzi è tornato la settimana scorsa, alla fine della settimana scorsa, di nuovo ad occuparsi della questione delle grandi navi a Venezia. C'è stato un incontro tra il ministro dei trasporti Lupi, quello dell'ambiente Galletti e per i beni culturali, il sottosegretario Borletti Buitoni, nel quale si è deciso di affrontare ancora una volta il tema delle grandi navi di Venezia e giurano dal governo che entro la fine di questa settimana anche questo sarà in agenda. Sarà o non sarà così? Pare che anche questa volta però non tutti siano contenti. Allora oggi, giornata internazionale della Terra, noi torniamo a parlare di quello che forse potrebbe essere davvero la fine di tutta questa storia, che potrebbe arrivare questa settimana. Saluto, come non chiamarlo questa mattina con noi, il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni. Buongiorno. Buongiorno a lei. E l'altra parte in causa, il presidente di Venezia Terminal Passeggeri, Sandro Trevisanato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Gli autori, tra l'altro, dell'intervento al TAR per comunque consentire il passaggio a Venezia, ma ci aiuterà anche Giuseppe Tattara, ex docente di economia internazionale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Che i conti alla mano ci racconterà se serve o non serve che queste navi transitino proprio di lì. Innanzitutto, Trevisanato, le chiedo una conferma. È vero che questo mese di aprile di nuovo i passaggi sono stati numerosi in questo ponte di Pasqua? Ovviamente anche perché è tempo di vacanze, i passaggi sono stati, sbaglio, una ventina? Beh, questo è vero, ma tutto è avvenuto nel rispetto del decreto che era stato emanato dal Ministro dei Trasporti, delle Infrastrutture, di intesa col Ministro dell'Ambiente, che aveva ridotto il traffico per il 2014 del fino al 20% e in esecuzione dell'ordinanza della Capitaneria di Porto, che aveva stabilito il limite degli transiti delle navi superiori alle 40.000 tonnellate del 12,5%. Quindi il transito delle navi è avvenuto nell'assoluto rispetto di quella prescrizione e senza nessuna adozione della misura permissiva che è stata adottata dal TAR Veneto con l'ordinanza. Quindi siamo comunque nei limiti. Assolutamente. Anche perché ricordiamo quando Celentano comprò la famosa pagina sul Corriere della Sera si parlava di 13 navi in 24 ore, qui parliamo di una ventina in 3 settimane. Certamente, voglio ricordare in proposito che la misura del governo che ha ridotto del 12,5% unita all'ordinanza della Capitaneria di Porto il transito delle navi per il 2014 e di fatto ha ridotto di 101 passaggi delle navi, delle grandi navi di fronte al canale, di fronte a San Marco, nel canale San Marco della Giudecca, unito al trasferimento dei traghetti che da tempo era stato programmato, per cui sono stati ridotti per il 2014 il transito di traghetti, circa 1300 transiti, ha fatto sì che i transiti nel canale di San Marco della Giudecca nel 2014 rispetto al 2013 siano stati ridotti del 44%. 44% in meno i transiti, però i transiti ci sono ancora e ovviamente la questione è anche tuttora aperta, anche se abbiamo detto il governo ha promesso che entro questa settimana il tema tornerà ad essere sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Allora, ridotti o non ridotti, il tema è devono passare però. Sindaco Orsoni, a che punto siamo? Siamo al punto che non si è ancora deciso. Questo è il vero Lei, tra problema. L'altro, la settimana scorsa ha lanciato un appello al governo: decidetevi, fate qualcosa, o sbaglio? Sì, certamente. Il problema è proprio qui. Io ho sentito con interesse quello che ha detto il presidente di VTP. È vero, c'è stata una riduzione, ma non è quella che era stata concordata al tempo del Presidente Letta nell'accordo di novembre scorso. La diminuzione del passaggio delle cosiddette grandi navi doveva essere fino al 20%, quindi pensando che dovesse arrivare circa a quel livello, invece lo è stata solo del 12%. E questo è già un inadempimento. Ma la questione sono i numeri di quante ne passano o il fatto che passino? Ma infatti lei tocca un tema importante, non sono tanto i numeri quanto la stazza delle navi che passano, perché navi entro una certa stazza possono essere anche compatibili con il passaggio in bacino, anche se anche qui il tema del numero può essere rilevante, ma il problema grosso è quello della dimensione delle navi. Oggi abbiamo delle navi che sono assolutamente incompatibili con il passaggio davanti a San Marco e nel bacino della Giudecca, fra l'altro si prevede che le navi abbiano dimensioni sempre più grandi e quindi a un certo punto uno stop a questo gigantismo navale va certamente dato. Allora 824 0024, vi ricordo anche oggi c'è il nostro numero verde 349 238 6666 per i vostri messaggi. Le ipotesi in campo, sindaco, se non sbaglio sono due: il cosiddetto retro Giudecca, allora quindi un altro passaggio, oppure l'idea addirittura di preparare una via apposita per queste navi. E mi pare di capire che nessuna delle due idee che in questo momento sul tavolo del governo a lei piaccia. Ma perché tutte e due sono due vie apposite, cioè sono due vie che prevedono l'escavo di un nuovo canale, anche quello retro Giudecca sarebbe un nuovo canale, fra l'altro ancora più impattante dal punto di vista dell'equilibrio lagunare di quello del cosiddetto contorta che propone l'autorità portuale, mentre ci sarebbe la possibilità di utilizzare i canali esistenti ed arrivare a Marghera facendo soltanto dei lavori di risezionamento del canale, cosiddetto canale di Petroli, che arriva. E quindi il concetto è questo: una grande opera, un nuovo canale da in laguna per mantenere le grandi navi, oppure mandarli a Marghera. Sì. Trevisanato non è d'accordo, e qui ci siamo. Per forza. Allora, intanto preciso che noi siamo, io rappresento una società che è una mera concessionaria per il traffico crocieristico. Per il traffico di croceristico, però. E quindi la legge 84-94. Abbiamo avuto uno sviluppo straordinario, assunto una credibilità internazionale, per cui adesso siamo stati chiamati a gestire non solo dei porti nazionali, ma anche a costruire e gestire dei porti stranieri, quali Istanbul, quelli. Ma Venezia ha bisogno di un nuovo canale perché li deve mantenere? Queste quindi navi. No, volevo precisare solo che il nostro ruolo è di possibili consulenti, ma non decisori. Chi deve decidere è la Capitaneria di Porto, è il Magistrato alle Acque, è l'autorità portuale. Qualora il governo ritenesse che la questione, come noi riteniamo, fosse strategica di interesse nazionale, potrebbe occuparsene il governo inserendo l'opera nella cosiddetta legge obiettivo. Quindi noi siamo degli umili servitori di queste autorità. Abbiamo però delle nostre opinioni che derivano dalla nostra esperienza e abbiamo fatto un'analisi con una nostra società di ingegneria di tutte le possibili soluzioni e ce ne sono 7 in campo, perché io ricordo che la Capitaneria di Porto ha inviato al Ministro delle Infrastrutture 7 ipotesi, di cui 2 sono in linea con il decreto Clini-Passera e con la determinazione che ha assunto il... che è quello che dice che le grandi navi in Piazza San Marco non ci devono arrivare attraverso quella via. Assolutamente. Allora, però la determinazione assunta dei 3 ministri che nella introduzione di questo servizio... Che si sono incontrati settimana scorsa, sì? Si è indicata la centralità della marittima. Delle 7 ipotesi... Ne sono tenute 2. E sono famosi 2 canali da scavare. La Retrociudec e il Sant'Angelo del Contorno, dalle altre, quindi sono state escluse per una scelta politica che non compete a noi. Noi non possiamo altro che dire che la condividiamo assolutamente, in quanto mentre in futuro riteniamo che le ipotesi offshore, ma in un progetto di lunghissimo termine, potrebbero anche venire realizzate, quello che attualmente non può essere realizzato è la soluzione proposta dal sindaco ed per eccoci. Un insieme di motivi che sono che stati è lo spostamento invece a Marghera e quindi via le navi. Allora 8:30 minuti, noi abbiamo una pausa, chiedo al sindaco se resta ancora con noi perché dopo gli diamo ovviamente possibilità di replicare, ma faremo anche i conti con Giuseppe Tattara per capire se ci conviene o non ci conviene, che vantaggio ne ha o non ne ha Venezia. 24 mattino. I nostri ascoltatori 349-238-6666, sappiamo tutti come andrà a finire: un giorno una nave da crociera colpirà e distruggerà il palazzo ducale, quel giorno verrà vietato il transito delle grandi navi. Venezia è come un merletto, questi mostri prima o poi la strapperanno, ci scrive un altro ascoltatore da Venezia. E un'altra ascoltatrice che mi pare che le grandi navi a Venezia le conosca bene ci dice: passano prima delle 7 di mattina con altoparlanti a tutto volume espandendo suoni in tutte le lingue e poi non finisco il messaggio. Messaggio lascio a voi intendere. Sindaco Orsoni, il doveroso diritto di replica, a Marghera le navi in centro, ma Venezia ci perde o ci guadagna a perderli questi passaggi? Ma innanzitutto vorrei precisare che nessuna decisione è stata finora presa dal governo. Diciamo che è stato fatto questo vertice settimana scorsa, sì, e che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri questa settimana. Dovrebbe arrivare, quindi la decisione la dobbiamo ancora attendere. Soprattutto il tema di andare a Marghera non è un tema scartato, perché dobbiamo distinguere fra quella che sarà la decisione finale su come far arrivare le navi anche in marittima eventualmente, dalla possibilità immediata di togliere almeno una quota, una parte delle grandi navi, le più grandi navi che potrebbero benissimo essere mandate da subito a Marghera, oltre al fatto che da Marghera c'è già un canale che si chiama Canale Vittorio Emanuele che può arrivare in marittima previo evidentemente una risistemazione, perché oggi, essendo un canale poco usato, non ha i fondali adeguati per arrivarci. Ma un conto è andare a rimettere a posto i canali esistenti, un conto è scavarne di nuovi. Questo è il punto fondamentale. Giuseppe Tattara, ex docente di economia internazionale all'Università Ca' Foscari a Venezia, lei i conti li ha fatti. Convengono queste grandi navi a Venezia? Ma il problema però, scusi se... Prego. Dico subito, il problema non è questo se convengono o meno, perché nessuno vuole, diciamo, vuole abolire l'arrivo a Venezia in qualche modo delle grandi navi. Certo, parliamo dell'arrivo in Piazza San Marco, delle grandi navi, e di quella quota, insomma. D'accordo, allora se le grandi navi arrivassero in un avamporto, o arrivassero secondo l'ipotesi del sindaco, che a me non sembra, ecco, io non condivido personalmente, ma insomma a Marghera certamente non ci sarebbe nessuna ricaduta. Ma in termini economici, queste navi a Venezia quanto valgono? I passeggeri è uno dei temi di cui spesso si è discusso, scendono poi da queste grandi navi, c'è un indotto? C'è un indotto modesto perché i passeggeri scendono, ma sono in piccola parte si fermano in città, spendono come tutti gli altri turisti, in buona parte vanno direttamente, perché la crociera inizia e finisce a Venezia, vanno direttamente a prendere i mezzi di partenza, e quindi c'è un indotto a mio parere più modesto, ecco, di quello che risulta dalle cifre che vengono spesso di cosa indicate. Parliamo? Di che cifre parliamo? Parliamo di centinaia di milioni. Allora, Luigi dalla provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Il mio intervento è molto semplice. Lei ha una soluzione, mi pare di capire. Prego? Lei ha una soluzione, mi pare di capire. Ma no, la soluzione è stupidissima, però anche la costiera amalfitana si è sempre fatta fino a 7-8 anni fa con i bus privati. Io ho guidato Pullman per 20 anni e si partiva da Milano e si andava giù in costiera amalfitana e l'escursione la si faceva con i nostri Pullman, creando un disastro, cioè chi andava, chi veniva. Adesso è qualche anno che hanno capito che i Pullman si lasciano davanti agli hotel e si prendono delle navette private di dimensioni ridotte e si fa il giro della costiera amalfitana. La stessa cosa potrebbe venire tranquillamente a Marghera, si lasciano le navi grandi, quelle che creano problemi, si lasciano a Marghera, si lasciano al Tronchetto, si crea un biglietto con un prezzo popolare per portare i visitatori o chi transita da Venezia a visitare la città. Il problema è che lì poi subentrano i soliti giochi, essendo noi italiani, subentrano mafie, subentrano un sacco di cose, le cose diventano ingestibili. Perché non si può fare così, Tattara? Io vorrei dire una cosa, però sì. Perché qui non sono state, si è detto che ci sono due ipotesi in campo, questo non è assolutamente vero. L'ipotesi in campo, come ha detto anche Trevisato, sono sette. Di queste ipotesi in campo, tutte e sette tengono in attività la stazione marittima, perché la stazione marittima... Quella non è in discussione. Non è in discussione, tutte e sette sono compatibili con il decreto Clini Passera. E tutte e sette tengono appunto in funzione la stazione marittima, quindi qui non stiamo discutendo di questo. Il Consiglio, la riunione che c'è stata la settimana scorsa è stata interlocutoria e ha visto l'opposizione peraltro di numerosi senatori di varie parti politiche, quindi è per questo che è stata rinviata e si parla di una decisione alla prossima settimana. Questa settimana, quindi non è vero che le ipotesi in campo sono due. Le ipotesi in campo sono sette, sono state trasmesse dalla Capitaneria di Porto al Ministero. Allora, tra l'altro, ai primi di maggio c'è una sentenza del TAR che si aspetta, se non sbaglio. La domanda è anche se per una volta la politica arriverà prima della sentenza del TAR, la seconda sarebbe, giusto? Sì, d'accordo. Ma io vorrei, se posso continuare il mio discorso. Allora, l'ipotesi di un, come dice Sandro Trevisanato, che l'attracco in avamporto del Lido sia un attracco possibile ma a lunghissimo termine, dico, è molto relativa, perché i progettisti di questi progetti hanno dimostrato nei loro studi che sono progetti realizzabili in modo graduale e realizzabili in 2 anni, che è sostanzialmente il tempo che ci vuole per l'escavo di un nuovo canale. Quindi voglio dire, questa ipotesi, che a me sembra la più ragionevole, è un'ipotesi che deve essere tenuta presente e che va considerata alla pari di tutte le altre. Ecco. A me sembra invece che l'escavo di nuovi canali in laguna, come ha detto il sindaco, sia dannoso per molte altre ragioni, che sono le ragioni che viene alterata in questo modo la morfologia lagunare in modo irrimediabile, come è stato dimostrato da numerosi studi internazionali. Noi abbiamo studiosi americani, abbiamo studiosi tedeschi dell'Università di Kiel, studiosi italiani, che hanno dimostrato come lo scavo di nuovi canali, come già lo scavo del canale che porta le navi a Marghera, sia stato dannoso per la morfologia della laguna centrale. Allora, certo. Non si può ignorare questi canali. Nuovi canali o meno per mantenere queste grandi navi. C'è Tommaso da Cuneo, buongiorno, mi pare di capire che lei c'è stato proprio su queste grandi navi? Tommaso da Cuneo, vediamo se riusciamo a recuperarlo. È con noi? No. Allora, lo recuperiamo tra pochissimo. Trevisanato, per voi la soluzione è questa, mi pare di capire, o perlomeno quella che voi preferireste come concessionari, ribadiamolo. Ma intanto io vorrei ricordare anche al sindaco, che con cui abbiamo un dialogo anche a mezzo stampa, direi ormai da un anno e mezzo, che la soluzione di Marghera è stata solo da lui accennata, ma risulta del tutto incompatibile con la necessità dei traffici crocieristici. Cioè, io ricordo che Venezia ha raggiunto faticosamente, con l'aiuto di tutte le aziende che collaborano, il primo posto quale on port del Mediterraneo, con quasi 2 milioni di passeggeri. Noi praticamente siamo a livello mondiale il terzo on port, perché se si considerano i tre porti caraibici, che hanno le prime 3 posizioni, Southampton, che ha la 2ª posizione, terza, e Venezia, che ha superato di recente Barcellona e con queste misure retrocederà al 4º posto praticamente. Allora, la stazione marittima è una struttura molto complessa in cui... Ma mi pare di capire che quella in discussione non sia, il problema è come arrivarci. In effetti, ma io dicevo questo, che la sostituzione della marittima non è una cosa semplice, né che si realizza né in 2 anni, né in 5 anni, né in 10 anni. Ci abbiamo messo noi 12 anni a ristrutturare un vecchio porto commerciale, trasformandolo in una modernissima stazione passeggeri, e c'era già un porto commerciale. E figuriamoci, ora lei dice, a cominciare da zero. Esattamente. Quanto ci metteremo? Allora, quanto, con quali costi e dove? Anche perché la soluzione del sindaco di Marghera lascia aperti dei quesiti. Allora, primo, dove si mandano le navi? Cioè, noi abbiamo 8 terminal, che si tratta di strutture modernissime che sono simili a 8 piccoli aeroporti. Noi abbiamo visto l'unico progetto presentato su Marghera, che è di un ex assessore, Alessio Vianello, che prevede dei tempi di 6 mesi, utilizzerebbe un'area molto più limitata di quella attualmente occupata dalla marittima, che ci... Certo, e lei dice, ormai ce l'abbiamo pronto, funziona, perché no? Dall'altra parte il sindaco dice, Venezia di altri canali però non ne ha bisogno, e anche qui parleremo comunque di opere tutto sommato imponenti, 2 anni, ma 2 anni stimati. Le 8:45, solo una piccola pausa. Ha chiamato 800240024 Tommaso da Cuneo. Mi pare di capire che lei su una grande nave a Venezia c'è passato? Sì, esattamente, io ci sono passato l'agosto scorso, quindi devo dire, la nave è, come dire, imbragata da un rimorchiatore, davanti e dietro va logicamente 3 all'ora, quindi possibilità di incidenti direi quasi 0. Ovviamente io non conosco l'aspetto ambientale, non conosco l'aspetto inquinante, però una cosa che io trovo demenziale, della quale non ne ha parlato nessuno, è vedere dall'alto i vaporetti, le navi piccole, e tutti questo andirivieni che non ha nessun senso logico, non c'è un senso unico, si rischia l'incidente ogni momento, è una cosa pazzesca quello che si vede dall'alto, non so, vorrei che qualcuno lo vedesse, lo provasse, sembra che proprio che ci sia un'anarchia assoluta, che non, io ho 66 anni e ho viaggiato parecchio in vita mia, non ho mai visto un'anarchia così, quindi se l'aspetto non è inquinante o ambientale, ho l'impressione che ci sia da vedere primo l'aspetto sicurezza e poi qualcuno secondo me vada a vedere le statistiche degli incidenti in laguna, perché ho sempre la paura che ci sia, come dire, allora. e poi termino, e ci sia un discorso politico di divisione torta, ho paura che sia così, perché ripeto, l'aspetto incidente è quasi nullo, perché i rimorchiatori e sono le altre navi che fanno paura. Ho finito, grazie. Le faccio rispondere, non si preoccupi, il tema anche questo sicuramente c'è ed è importante, ricordiamo col fatto che questa settimana o la prossima il governo dovrebbe dire la parola fine, forse prima del pronunciamento del TAR, la politica forse questa volta potrebbe arrivare un po' prima. Ci ha raggiunto anche Silvio Testa, membro del comitato No Grandi Navi, allora buongiorno anche a lei. Buongiorno. Sono le grandi navi? Sono le piccole? Lei si aspetta una soluzione questa settimana? Io temo che esca la soluzione del contorta, che è una soluzione che noi vediamo come fumo negli occhi e che di fatto è l'unica. E che prevede il nuovo canale, per intendersi, per i noveneziani. Che di fatto pare essere l'unica in pista fin dal decreto Clini-Passera che è stato approvato dopo l'incidente del Giglio. Nel 2012, no? Cioè il decreto non parla di marittima, non parla di canali, ma è articolato in modo tale, insomma, che sembra ritagliato, ecco, su questa soluzione, no? Per cui io temo che la soluzione sarà questa. Il nostro ascoltatore ci diceva: più che le grandi navi, il problema è il traffico. Ma che il traffico a Venezia sia fuori di ogni regola è cosa che ogni veneziano sa perfettamente. C'è stata una enorme battaglia negli anni trascorsi che ha portato alla nomina di un commissario al traffico acqueo da parte del governo. Il commissario era l'attuale presidente dell'autorità portuale Paolo Costa, che all'epoca era sindaco. Il risultato è stato che ha usato dei pieni poteri che aveva per dirimere le beghe tra le compagnie professionali, i tassisti, i gondolieri, i motoscafisti, i trasportatori, e che invece della sicurezza del traffico e della civiltà, diciamo, e della rieducazione dei veneziani al traffico non ha fatto. Rieducazione nulla. Dei veneziani al traffico, e, sindaco Orsoni. Ma io l'espressione è ridicolo pensare che sia il traffico del comune, il traffico giornaliero a creare problemi alle grandi navi, come pare emergere dall'intervento di quell'ascoltatore. Il problema sono le grandi navi, non è il traffico quotidiano che ha le sue regole e che è certamente da disciplinare e da tenere sotto controllo, ma non è certamente, non si può rovesciare l'ottica e dire che il traffico quotidiano ostacola le grandi navi, perché siamo veramente al paradosso. Allora, un ascoltatore, tra l'altro, allora, per compensare un po', c'è un altro ascoltatore che invece si iscrive: ricordo che la torre piloti di Genova è stata abbattuta da una nave con 3 rimorchiatori agganciati. Il problema è proprio la dimensione di queste navi, che è assolutamente fuori misura per il bacino di San Marco, che era stato pensato per navi di ben altre dimensioni, quindi è inutile girare attorno al problema, arrivano di qua, arrivano di là, dove vanno, eccetera. Il problema vero e fondamentale è che non devono più passare. L'hanno chiamata da Roma in tutte queste discussioni? No, io trovo che questo sia l'errore, perché anche è vero quello che dice Trevisanato, e il governo deve prendere una decisione, perché questo è un problema di carattere nazionale, ma esiste già nella nostra normativa un comitato, che è un comitato interministeriale, che presiede a quello che è il problema di interesse nazionale, che è la gestione della laguna di Venezia. È quella la sede in cui si deve ragionare e si deve trovare la soluzione. Ogni altra sede è una sede sbagliata perché non tiene conto necessariamente di tutte le implicazioni che ci sono. Ma lei se l'aspetta una decisione a breve finalmente? Secondo lei i tempi sono maturi o aspetteremo il TAR? No, ma il TAR, cosa vuole il TAR? Non c'entra niente, il TAR ha dato una sospensione ad un provvedimento che di fatto è... Ma quindi lei se l'aspetta... Non è il problema del TAR, il problema è un problema politico e di scelte tecniche che devono essere prese ed attuate nelle sedi opportune. È tutto qui, ma bisogna fare in fretta, non si può continuare ad aspettare. Trevisanato, su questo fare in fretta mi sembra sia l'unico punto su cui siete d'accordo. Ma sì, noi siamo d'accordo, abbiamo lanciato anche noi degli appelli al governo a mezzo stampa, in quanto ci ha molto preoccupato la decisione, secondo noi irragionevole, e come tale l'ha ritenuta il TAR, perché l'ha ritenuta priva di motivazione, di questa drastica riduzione del traffico per il 2014, che diciamo è avvenuta anche in modo ragionevole, e qua non do ragione al sindaco quando dice che non sono stati rispettati gli accordi, perché la decisione prevedeva un limite fino al 20%, la Capitaneria di Porto ha applicato una riduzione del 12,5%, in quanto c'erano già tutti i programmi delle compagnie già fatti. La riduzione è drammatica per il 2015, in quanto il limite delle 96.000 tonnellate... drammatica vale, vuole dire riduzione di passaggi di grandi navi. Esattamente, drammatica per l'occupazione e per l'indotto, perché tutti hanno parlato sinora, anche il professor Tattara, di danno economico, e si parla comunque di cifre che variano dai 400 ai 450 milioni di euro di indotto, ma direi che ancora più rilevante è il danno occupazionale che ci preoccupa, quello che preoccupa anche tutte e tre le sigle sindacali, Confindustria, tutte le associazioni di categoria, che hanno preso una posizione ferma dicendo dobbiamo fare in fretta e anche dobbiamo ripensare il limite posto per il 2015, perché questo limite delle 96.000 tonnellate, allora le grandi navi che entrano o che non entrano, certo, e quindi meno passaggi. Abbiamo veramente pochissimo, un'ultimissima battuta. Comitato no grandi navi, Silvio Testa, se il governo dovesse decidere questa settimana ancora per il passaggio, per l'escavo di nuovi canali e quant'altro, tornerete a mobilitarvi? Certamente metteremo in piedi tutte le possibili forme di opposizione, dalla manifestazione al ricorso giuridico, al ricorso alla Commissione europea, che per il converso abbiamo già fatto anche sui provvedimenti di novembre del governo, quelli contestati dal TAR per intenderci. Cioè, non c'è dubbio che qualsiasi soluzione che non preveda l'estromissione dalla laguna delle navi incompatibili non vi piace. Sindaco Orsone, una telefonata a Roma la farà? Sì, farò una telefonata e penso che andrò anche a Roma. Penso che il problema vada... Pensa o ha deciso? Penso che comunque il problema vada affrontato in modo, come dire, con meno slogan propagandistici. Che le grandi navi, anche se arrivano a Marghera, certamente non fanno diminuire né l'occupazione né l'indotto, perché tutto il lavoro che fa il porto, che lo faccia in marittima, che lo faccia a Marghera, evidentemente è lo stesso. Ma detto questo, nessuno vuole togliere le grandi navi dalla marittima, questo deve essere chiaro. Ma da Piazza San Marco? Per essere da Piazza San Marco. Vedremo cosa succederà e se davvero da questa settimana arriverà questa decisione. Allora, grazie ai molti ospiti di questa mattina: Giorgio Orsoni, sindaco di Venezia, Sandro Trevisanato, Venezia Terminal Passeggeri, Giuseppe Tartara, docente all'Università Ca' Foscari, Silvio Testa, comitato No Grandi Navi. Vedremo che succederà, se le prossime crociere di primavera vedranno ancora le grandi navi a Piazza San Marco. Abbiamo parlato anche di questo, torneremo a parlare però ancora di decreto lavoro, di famosi 80 euro, dell'IRPEF, delle coperture, di tutto questo ancora tra pochissimo dopo il giornale radio, perché 24 mattina oggi prosegue anche dopo il GR24. 24 mattino. Siamo siamo ancora qui, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Prosegue in questi giorni tra Pasqua e il 25 aprile, 24 mattino fino alle 9.30. Abbiamo parlato di tante cose durante il corso della mattinata, torniamo però all'attualità politica, più politica che non si può, perché oggi potrebbe essere davvero un test decisivo, quello vero, per Matteo Renzi, per vedere come va, qual è la salute della sua maggioranza e se il piano delle riforme davvero prende la sua strada. L'avete sentito in GR24, in discussione c'è il cosiddetto decreto lavoro, che però è stato modificato in commissione, che però arriva in aula così non esattamente come era stato concordato. Insomma, oggi la scena che potremmo vedere è quella di una fiducia, di una discussione accesissima e tutto da vedere. Allora, io saluto Giorgio Mulè, direttore di Panorama, buongiorno. Buongiorno a voi. Marco da Milano, giornalista dell'Espresso, buongiorno. Buongiorno. Allora, la domanda che oggi ci si fa e a cui alcuni giornali rispondono con un deciso sì è: sarà fiducia tra virgolette politica quella di oggi sul lavoro? Vale a dire, Renzi è arrivato ad uno dei nodi cruciali per verificare chi davvero lo segue. Mulè, che ne pensi? Ma insomma, penso che ogni mattina e ogni settimana che Dio manda c'è sulla un nodo. Terra, no, ma sì, cioè io sono anche abbastanza stufo, perché ogni volta c'è una giornata cruciale, una giornata decisiva, una settimana decisiva, è veramente stucchevole tutto ciò. Per cui oggi celebriamo l'ennesima giornata cruciale e decisiva sul lavoro. Ma insomma, io penso che in realtà il nodo è solamente politico, e a furia di ripetere le giornate decisive e cruciali, Renzi continua a balbettare, perché di balbetti o di ruttini politici parliamo nel momento in cui delle slide, delle 120 slide quant'erano, di tutto quello che si è detto, del cronoprogramma, di tutto questo tourbillon, di tutto questo, alla fine ci abbiamo in mano un decretino che è quello del lavoro, che adesso vediamo come verrà modificato, e ancora siamo in attesa di vedere il decreto sugli 80 euro che contiene al suo interno tasse, tasse e ancora tasse. Eccoci, perché aumentare lì i conti correnti dal 20 al 26, aumentare con la palla di vetro peraltro quello che uno guadagna sui fondi o sugli altri strumenti finanziari dal 20 al 26, eccetera, eccetera, eccetera, altro non è che la solita vecchia inutile manovra. Nulla di nuovo, nulla di nuovo, Mulè. So che dispiace, ma insomma è così. Il decreto è in fase di coordinamento testo con i singoli ministri, sarà credo pubblicato in Gazzetta Ufficiale all'inizio della settimana prossima, ma questo consentirà di erogare i mitici 80 euro fin dal mese di maggio. Pillola di slide quotidiana, ma Marco da Milano, d'accordo o no? Ma oggi appunto arriva il decreto lavoro nell'aula di Montecitorio della Camera, e oggi anche insomma il 22 aprile, quindi manca praticamente un mese al vero test, che è quello elettorale, che è quello elettorale del 25 maggio, delle elezioni europee. Voi tra l'altro avete scritto senza mezzi termini che Grillo ha superato Berlusconi e che questo preoccupa Renzi. Non l'abbiamo scritto noi, lo dicono tutti i sondaggisti, a partire da Alessandra Ghisleri, la sondaggista più ascoltata da Berlusconi, ma un po' tutti gli istituti di sondaggio dicono che il sorpasso del Movimento 5 Stelle ai danni di Forza Italia è cosa fatta, almeno oggi e almeno virtualmente, ma proprio Berlusconi ci ha insegnato che i sondaggi sono una cosa molto valgono seria. Quelli del giorno in cui si mette la scheda nell'urna. Certo, però valgono anche quelli che creano un'attesa nell'elettorato, e più in generale queste prime battute di campagna elettorale dicono che c'è un'area di governo che rappresenta Renzi con tutte le illusioni e trucchi del mestiere, e un'area dell'opposizione rappresentata da Grillo, mentre Forza Italia fatica a trovare un ruolo, l'NCD fatica a trovare un ruolo, e questo spiega perché oggi il decreto lavoro troverà delle difficoltà, perché l'NCD deve dire esisto da mesi che fa la ruota di scorta di Renzi. Basterebbe dire che finora Alfano, io le ho seguite mi pare tutte, di capire, in sala stampa a Palazzo Chigi non si è mai visto. Non si è mai visto un ministro dell'NCD mettere la faccia su un provvedimento del governo. Mi pare di capire che secondo te è tutto gioco politico in realtà, ma il vero appuntamento, unico vero appuntamento, è quello elettorale. Il gioco politico, ovviamente la sovranità popolare conterà ancora qualcosa, quindi il gioco politico poi deve avere il consenso. Il governo Renzi è un governo non votato dagli elettori, è stato si è costituito, come sappiamo, dopo un voto della direzione del PD che ha decapitato il governo Letta. Il test, l'NCD è un partito che non si è mai presentato al cospetto degli elettori, è nato dopo una manovra di palazzo al Senato e alla Camera in occasione dell'uscita dal Senato di Silvio Berlusconi e del voto di fiducia al governo Letta, quindi almeno queste due forze, Renzi e l'NCD, hanno bisogno di un consenso popolare per andare avanti. Che è tutto da verificare. Moulet, d'accordo? Insomma, che quello del 25 sia l'esame degli esami è certamente vero, rischia di essere non falsato, ci mancherebbe altro, ma di subire, come dire, ovviamente il vento che stiamo respirando dal fatto che sia la Lega che il Movimento 5 Stelle avranno sicuramente i loro consensi aumentati rispetto a quello che solitamente hanno, perché cavalcano l'anti-austerità, cavalcano ragioni politiche che trovano Brescia nell'elettorato. Sul resto, come dire, certamente il PD, certamente Renzi, a mio giudizio incasserà un'ottima prova, bisognerà vedere quanto sarà sopra il 30, intorno al 30, più del 30 eccetera. Il nodo vero è il punto di caduta di Forza Italia, se sarà davvero, come accreditano i sondaggi adesso, sotto il 20%, oppure se per l'ennesima volta Berlusconi farà il colpo da maestro e quindi guadagnerà percentuali nei sondaggi che al momento nessuno gli accredita. Anche Mare Nostrum si inquadra in tutto questo, è solo la polemica della Lega o lì c'è dietro anche altro? Della Lega e di Forza Italia, cioè i fondi, i soldi che paghiamo per salvare gli immigrati nel Mediterraneo? Mare Nostrum è una tragedia che, come dire, richiama le nostre coscienze e intermittenze, questa è la cosa peggiore che stiamo vivendo. Cioè, tutti abbiamo davanti le immagini dei corpi allineati a Lampedusa, dei corpi dispersi in mare, il viaggio di Francesco in terra di Sicilia, nel mare di Sicilia con il suo atto di... Ma in queste ore è diventata una bagarre di soldi. Ma sai, è diventata una bagarre di soldi in realtà non da adesso, nessuna emergenza era più annunciata di quella degli sbarchi. Il problema è che non si è affrontato il nodo in maniera davvero frontale, e andava affrontato soltanto con chi deve badare alle frontiere, cioè l'Europa e non soltanto l'Italia. La frontiera del sud, la frontiera siciliana, non è una frontiera italiana, è una frontiera comunitaria, e in questo l'Unione Europea ancora una volta sconta la sua incapacità di essere un attore vero, presente nei momenti in cui la politica, nel momento in cui l'emergenza richiede di essere presente. C'è questa polemica, è una polemica se vuoi fondata, insomma non si capisce perché bisogna che soltanto l'Italia si accolli 300.000 euro al giorno, è giusto che questa spesa venga divisa con responsabilità che devono e non possono non essere condivise. Il resto, come dire, ovviamente nessuno vuole e può lasciare gli immigrati in mare, anche se faccio presente che paesi come la Spagna adottano delle politiche, sistemi diversi dai nostri, molto diversi dai nostri, esatto. Non hanno avuto Lampedusa, questo l'impatto psicologico. No, hanno avuto tante piccole Lampedusa ripetute nel tempo, hanno sparato, hanno ucciso. La grande Lampedusa. Non hanno avuto la grande Lampedusa. La grande Lampedusa. Butto lì un altro dei temi che sicuramente oggi accenderanno la discussione, giusto per cominciare a carburare in questo martedì di avvio di settimana. Oggi Repubblica scrive che taglieremo gli F-35. Marco da Milano, che ne pensi? Anche qui siamo in campagna elettorale, parliamo di cose che faremo. Sì, beh, sugli F-35 il decreto presentato venerdì dal governo sono briciole, sono, se non sbaglio, 125 milioni di risparmio, e tutte le associazioni pacifiste, anche Anche perché diciamolo, le autorità indipendenti hanno raccontato e i giornali hanno raccontato che si tratta di risparmiare praticamente qualche bullone o uno degli F-35, quindi è un risparmio irrisorio, mentre il retroscena oggi di Repubblica firmato da Francesco Bei presenta un risparmio ben più corposo, un taglio ben più corposo. Parliamo della metà di un risparmio di 2 miliardi di euro. Mi sembra che su questo punto il governo Renzi e il ministro della difesa Pinotti abbiano una linea molto prudente, ci sono interessi internazionali, c'è stata la visita di Barack Obama a Roma dove il Presidente degli Stati Uniti fu molto chiaro, addirittura in conferenza stampa disse la libertà costa, quindi voi europei e anche voi italiani volete tagliare sulle spese militari, bene, ma poi non chiedete agli Stati Uniti di intervenire quando c'è una crisi, poniamo quella ucraina che è alle porte di casa, da un lato. Dall'altro c'è un'esigenza di tagli che non possono non riguardare anche gli investimenti sulla difesa e più in generale tutto il settore che ruota attorno alle forze armate, dove sprechi, alte gerarchie, insomma tutti i temi dell'amministrazione statale nel settore della difesa sono amplificati, basterebbe girare per Roma e vedere c'è ancora un palazzo dedicato al Ministero dell'Aeronautica gigantesco alle porte dell'università, ci sono sprechi macroscopici, questo al di là di ogni posizione ideologica. No, ma cioè... E quindi credo che anche su questo tema la linea di Renzi sia molto pragmatica, è un tema spinoso, è un tema molto sentito a sinistra, ha spaccato già il PD all'inizio della legislatura quando ci fu un voto che poi finì consegnando a una commissione parlamentare lo studio. Sappiamo che le commissioni sono un utilissimo strumento per guadagnare tempo se non perderlo, adesso la commissione finirà il lavoro e credo che su questo tema Renzi darà dei segnali molto più corposi di quelli annunciati venerdì. E di annunci ne abbiamo veramente tanti. A proposito di tagli, io rileggo ancora oggi dal Corriere della Sera una notizia veramente che mi ha lasciato stupefatta. Il CNEL, uno dei tanti enti che abbiamo detto che dovevamo tagliare, prova a salvarsi in extremis, taglia il geriatra, un geriatra a disposizione dei consiglieri una volta alla settimana. E insomma... continuano a venire fuori storie di questo tipo, Mulè. Sembra infinita questa raccolta di perle. Ma non solo infinita, ma soprattutto, come dire, è veramente angosciante per uno che paga le tasse, le paga tutte. Oramai sono passati 6 anni, mi sarà il primo libro sulla casta, che maciniamo copertine, articoli, libri, e ogni volta sembra che sia inutile perché ne scopriamo sempre una nuova. Non bisogna però farsi, come dire, abbacinare a queste storture, queste lordure, chiamiamole come vogliamo, del sistema della pubblica amministrazione, nel senso che sono degli odiosi privilegi che vanno estirpati alla radice, ma non è tagliando il geriatro, tagliando le 200 piccole cose che ci sono in giro che questo paese recupera i miliardi di euro di cui ha bisogno. Cioè, quando parliamo di spending review, di revisione della spesa, è assolutamente non solo legittimo, ma tempo abbiamo perso a sopprimere gli enti inutili, che non sono soltanto il CNEL, ma sono migliaia di enti inutili. Ma la spending review ha bisogno di un respiro che non è sul momento come adesso ci si vuole far credere, cioè non si tagliano pronti via 3, 4, 5, 6, 10 miliardi. La spending review è un processo di revisione della spesa, per cui tu decidi che gli appalti vanno fatti in un certo modo, le centrali è un cambio di mentalità. Ma ci vogliono. È un cambio di mentalità, bisogna, se vogliamo bere il Renzino, partire in un altro modo, vederla in un altro modo. Allora, un altro abbiamo veramente tanti questa settimana di temi, stando a vedere appunto alle discussioni che ci sono, c'è quello degli 80 euro, ormai quello degli 80 euro è diventato il tormentone e su questo sicuramente Renzi ha ragione, però pare che lo stesso Renzi nell'intervista ieri almeno a Repubblica un po' si sia corretto, nel senso che ci sono gli incapienti, ci sono i single a cui probabilmente andranno più che alle famiglie, eccetera eccetera eccetera, quindi bisogna anche vedere se veramente il governo, come potremmo dire, ha mirato bene. E una di queste questioni è quella delle donne lavoratrici. Allora oggi sempre la Repubblica rivela anche un'altra cosa, lo sconto fiscale per le mamme lavoratrici, non il quoziente familiare ma uno sgravio solo per le donne per aumentare il lavoro femminile e quindi andare a mirare su una fetta ancora più precisa di contribuenti. Mulè, forse questi 80 euro qualche ripensamento c'è stato sulle persone a cui sono state mirate? Gli 80 euro sono sbagliati alla radice, cioè se bisognava riequilibrare e dare a chi ha veramente versato di più, la politica è completamente sbagliata, nel senso che noi abbiamo celebrato, abbiamo pianto e abbiamo scritto anche qui giornali, copertine eccetera eccetera, sui suicidi che sono avvenuti a centinaia nel Veneto, nel Nord-Est, in tutta Italia, di piccoli imprenditori, di partite IVA, di persone che non ce la facevano a pagare le tasse, allora piuttosto si uccidevano. Beh, sapete che quanto diamo a queste persone? Manco un euro, manco un centesimo. Ora io non capisco perché sono diversamente fiscali queste persone rispetto a quelli che lavorano. Non capisco perché i pensionati, ai quali non è stata rivalutata la pensione, i quali vanno avanti tirando la 5, i quali sono stati il cosiddetto welfare, per chi non doveva andare sotto non debbono avere un centesimo. Non capisco perché gli incapienti, questi che guadagnano fino a 8.000 euro, i primi tra i poveri, non devono avere nulla. Quindi la scelta è sbagliata in radice, perché si danno 80 euro, peraltro sono 80 euro soltanto per una ristretta fascia. Poi va a scalare. Le cose bene, non va a scalare. Parte già da 40 euro per chi ne guadagna molti meno di 15.000. In realtà è modulato in maniera molto diversa. Gli 80 euro sono limitati a chi guadagna tra, mi sa, 22 e 24 mila euro. Prima e dopo è molto di meno. Da Milano, è stata una mossa azzeccata o no? Ora che questa settimana dovrebbe arrivare in Gazzetta Ufficiale. Ma la mossa di Renzi ha uno scopo preciso, cioè punta dritto al ceto medio, un ceto medio che si è impoverito moltissimo negli anni della crisi e che non aveva segnali da parte della politica da molti anni. È vero quello che diceva il direttore Mulè, le imprese, ma questa era una scelta che aveva fatto anche il governo Prodi nel 2006, tagliando il cuneo fiscale, il risultato poi fu quasi nullo sia in termini economici sia in termini politici, mentre Renzi, che è un leader che seguendo anche il fulgido esempio di Silvio Berlusconi parla direttamente al paese, ha deciso di puntare tutto il tesoretto, i 10 miliardi, sulle famiglie e sul ceto medio, individuando in questa fascia, da un lato, il possibile motore della ripresa, nel senso che se questi euro, questi spicci... Sarà una scommessa vinta, per intendersi, o sì, no? Però se dovessero finire in una propensione al consumo, come dicono gli economisti, se dovesse finire insomma significherebbe un minimo segnale di ripresa. Potrebbe essere una scommessa vinta, dipenderà da dove finiranno insomma. Sul piano politico il ceto medio corrisponde al famoso centro della società, solo che il centro della società Renzi lo insegue non facendo l'alleanza con l'UDC di Casini o con la scelta civica di Mario Monti, ma cercando direttamente i voti di queste fasce sociali. Quindi il risultato è doppio, quello atteso, poi quello reale staremo a vedere. Quello percepito, ecco, poi quello reale vedremo. Quello reale vedremo. Insomma, dagli 80 euro al lavoro mi par di capire. Tutti d'accordo, le questioni sono essenzialmente politiche. In fin dei conti manca un mese o giù di lì al voto e questa sicuramente piena campagna elettorale. Grazie, Giorgio Mulè, direttore di Panorama. Grazie per essere stato con noi, Marco da Milano, giornalista grazie. Dell'Espresso. Oggi ci attende, come dicevamo all'inizio, l'ennesima cruciale giornata politica. Come sempre ve la racconteremo, saremo qui anche domani a raccontarvela con i temi di giornata. Grazie per essere stati con noi. 6:30 domani mattina si ricomincia con 24 mattino, per questi giorni fino alle 9:30 insieme per raccontare questa giornata. Allora, grazie a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Anita Panizza, Peter Bescapè in regia e Paolo Corleoni. Ci risentiamo domani mattina. Buona giornata da Anna Migliorati.